Quand l'eau bouillait ben de la oua, planto qui lo guiado, planto qui lo guiado. Trobo soffè nol pe del fio, trobo soffè nol pe del fio. Tutto desconsolato, tutto desconsolato. Se si è smalato di gozù, se si è smalato di gozù, te fore nun potaze, te fore nun potaze. Un buon orabe un caule, un buon orabe un caule, una luce tomago. Una losetto magro.